Oh! Oh, hi! Okay, everybody, let's do the left and right song. Your left side is over here, and your right side is over here. Now get those hands up. Okay, great. When I say left, raise your left hand high. When I say right, raise your right hand high. Everybody ready? Okay, here we go. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Salamander! Good job! Let's try it again, but we changed the order. Please listen. Left. Left. Right. Right. Left. Left. Right. Right. Salamander! Oh, that salamander is a good dancer. Okay, let's do it again. It's going to be a little faster. Left, left, right, left. Left, left, right, left. Left, left, right, left. Left, left, right, left. Salamander! Betty, you're so great! We interrupt this video to bring you a special report. No, no! Ditemi no. Che avete ballato con noi! No! Il fantastico mondo della destra e della sinistra. Salamander! Salamander! Salamander! È veramente, no. Veramente molto bello. Ma la nostra sigla! E c'è stato un qui pro quo lassù giù, perché... Lassù qualcuno non ci ama. Sì, perché questo file si è dimostrato veramente dispettoso. E allora ve la faremo sentire con qualche secondo di ritardo. Vediamo se arriva ora, perché ragazzi, l'ansia deve accompagnare l'inizio di ogni puntata dell'Accademia. Ansia Dance. Ansia Dance, vediamo. Eccola, buona sigla ragazzi, ci risentiamo tra poco. Eccoci, ora possiamo dare inizio alle danze per davvero. Addio a disguidi, malefici, disguidi? Malefici tecnici. Addio sogni. Siamo di gloria. Qui davanti ai nostri microfoni per chi ci ascolta in diretta giovedì. Oggi è giovedì, sappiatelo, sono le 20.05. Esatto. Se invece ci ascoltate in replica sarà sabato o domenica per ancora poco tempo, perché poi cambieremo, come abbiamo già accennato la settimana scorsa, ma questo è un altro discorso che faremo più tardi. Quando avremo delle certezze. Quindi mai, signore e signori. No. Le avremo, vi faremo sapere. Le faremo sapere. Le faremo sapere, vi faremo sapere quando potrete riascoltarci in replica durante i vostri gioiosi fine settimana. Almeno certo. Ci auguriamo siano tali. Ma guarda, questo spot che in realtà era una bellissima sigla, raccontaci, divertentissima, che insegna ai bambini la destra e la sinistra con un simpatico balletto della salamandra. Sì, lui non era un personaggio ubriaco, mi balla come l'occhio, io perché a parlare di destra e di sinistra mi balla l'occhio, adesso... Mi esce il sangue dalle orecchie e casco a testa all'indietro. Peccato che voi, amici, che ci ascoltate da casa, dalle macchine, non possiate vedere questa scena. Ma la sentirete con un gran tum. No. Ma bene. Perché questa sigla? Non facciamo mai nulla al caso, non lasciamo mai nulla al caso e soprattutto il caso non ci ama a me e alla Nenia. No. E noi non amiamo il caso. Esatto. E come possiamo... Mi rinfrescavo, scusa. Sì. No, io invece stavo cercando di rendere il tutto più semplice possibile. No, non ci sarà niente di semplice. Cercheremo di renderlo semplice, ma non ci riusciremo, perché per farlo dovremmo essere i grandi professori della Crusca e noi non lo siamo. Ci guarda da lassù. Ma ci limiteremo a citare i grandi mostri della linguistica, ed è già tanto per inteso noi, inteso come incubo, sì, anche l'incubus per, sì, come... perché per esempio la Donati è stata un mio grande incubo per tanto tempo e lo è tuttora, cioè lo sarà di nuovo stanotte, quindi ci limitiamo a citare Nenia, i maestri. Sono la Donati. Caterina, non volevo. I grandi mostri maestri, ma che dire, questo a un certo punto della trasmissione, mentre le anticipazioni, la nostra intro curata dalla Nina... Io sono quella buona delle due, sì, a parte la voce, ma insomma, io sono quella buona delle due, l'avete capito, no? No, non è vero. Non è assolutamente vero. Sono forse molto più cattiva della Nina. Sì. Allora, facciamo così, sì. Facciamo un patto, iniziamo parlando della struttura informativa degli enunciati, detta così sembra, non so, dalla padella alla brace, invece, diciamo, siccome la volta scorsa abbiamo parlato, no, di un criterio pragmatico, cioè l'analisi logica assume un senso quando effettivamente noi trasponiamo gli elementi in un qualcosa. Scusate un attimo, non funziona tutto. Sì, okay, abbiamo un problema tutto tecnico. Per bene. Quando noi era un'ipotesi di problema un'ipotesi tecnico. Di problema. Non sussistono problemi all'Accademia della Brusca, sia mai. Insomma, l'analisi logica prende un senso se la trasponiamo su un piano pragmatico, quindi non troppo teorico, ma estremamente legato alla realtà sensibile quotidiana. Tiriamo in ballo anche la filosofia stasera. Quindi stasera parliamo di criteri pragmatici, di conseguenza pratici, che regolano l'informazione degli enunciati. E poi passeremo al lato sinistro della frase. Sinister. Proprio. Allora, però prima di dire tutto questo, facciamo un discorso brevissimo. Ci sono delle categorie, no? A livello pragmatico, il contenuto informativo di un enunciato, quindi di una frase, si può sintetizzare così. Ci deve essere un argomento rispetto al quale si dice qualcosa, base. In questo processo l'informazione va dal noto al nuovo. Si comincia da un qualche cosa di dato per arrivare a un'informazione che non conosciamo. Facciamo un esempio con una frase. Cesare ha scritto un discorso brevissimo. Studiamo la struttura di questo enunciato. Nella terminologia della scuola di Praga, quella della defenestrazione, no? Ma era sempre a Praga la defenestrazione. Ciò di cui si parla è detto tema. Riprendiamo la frase. Cesare. Ciò che si dice del tema, quindi che cosa ha fatto, chi è detto rema, che può essere scritto rema o rema con un H interposta tra la R e la E. Etichette inglesi. Topic, argomento, e scusatemi, sto per starnutire. Ah, guarda, ecco. Questo freddo, mannaggia. Mannaggia. Topic, argomento, e comment, commento. Quindi, topic, tema comment rema. Direi che questa è una buona base da cui partire, ok? E quindi la parte tematica, ciò di cui si parla, coincide con il dato, il conosciuto, e invece la parte rematica, ciò che si dice sul tema, corrisponde con il nuovo, al nuovo, scusatemi. Il rema, nella disposizione normale delle frasi, tende a occupare la fine degli enunciati. Simone è il fratello di Luca. Quindi il fratello è il fratello di Luca, è il rema. Però nella progressione di un testo, di un discorso, la parte rematica di un enunciato può diventare anche il tema dato. Ovvero, Simone è il fratello di Luca. Quest'ultimo ha frequentato il liceo con me. Però ci manca un sottofondo, ma dopo adesso facciamo una cosa. Spieghiamo le cose facili, poi lo mettiamo quando spiegheremo le cose difficili. Chiaro. Proprio un gioco dell'oca terribile. Io tiro i dadi. E quindi, insomma, possiamo invertire, o perlomeno, la parte rematica diventa il tema dato dagli enunciati che lo seguono. Simone diventa il tema, anzi il rema, è il fratello di Luca. Tutto questo può sembrare abbastanza, come dire, un po' incasinato effettivamente, però possiamo fare un punto storico che ci dà una ragione, no? Ci motiva il motivo appunto per cui possono avvenire degli spostamenti all'interno di un enunciato di una frase di questo tipo. Allora, in latino, negli enunciati costituiti da una sola proposizione, l'ordine dei costituenti era tendenzialmente soggetto, oggetto, verbo. Io la mela mangio. Ma c'era molta più libertà di collocazione, poiché i morfemi delle parole indicavano la loro desinenza. Molto brevemente, i latini declinavano. In italiano, invece, l'ordine normale dei costituenti è soggetto, verbo, oggetto. E fin qua, penso sia quinta elementare, no? Oppure, essere soggetto, verbo, oggetto diretto e oggetto indiretto. È una struttura canonica, detta non marcata, basica, normale, dove il soggetto grammaticale, io, funziona come tema, mentre tutta la parte successiva, che predica l'informazione sul soggetto, si configura come rema. Mangio la mela. E, però, appunto, per motivare quello che si diceva prima, per cui la parte data della frase può essere spostata alla fine diventando la parte non conosciuta di quell'informazione che non conosciamo e viene chiamata soggetto posposto, ovvero rispetto alla posizione classica soggetto verbo oggetto, in italiano il soggetto può essere normalmente posposto in diversi casi. Per dare espressività, per marcare, per enfatizzare, è buonissima la pizza. È vero, ho fame. Per contrasto, è venuto Giovanni, non Mario. Nelle frasi interrogative, esclamative, esortative, con i cosiddetti verba dicendi. Ha detto Paolo di andare subito da lui. Ha chiesto il nonno a che ora arrivi. E con determinati verbi in accusativi di accadimento, qui stiamo andando un pochettino nello specifico. È arrivato il treno. È affondata la nave. La nave è affondata, il treno è arrivato. Quando il soggetto però risulta appesantito da tanti altri elementi all'interno della frase, oppure da una subordinata relativa. Ha parlato Giovanni oggi, che ha detto che aveva studiato bene l'argomento. E quindi la costruzione normale, basica, non marcata delle proposizioni, che è quella più neutra possibile ed è appropriata al maggior numero di contesti possibile, nel parlato, come nei linguaggi scritti che emulano il parlato, o quelli meno formali, può subire degli andamenti, diciamo, e adattamenti sintattici che appunto portano ad avere un ordine diverso da quello normale, spostando il focus informativo su uno dei componenti della frase e quindi diventano costrutti marcati. Tiè. Ah, dai, non era così difficile, è un ragionamento che va un po' seguito, però effettivamente, siccome di pragmatica parliamo da due puntate, e qui basta applicare un pochettino la, la, come dire, il, la realtà, applicare la realtà al linguaggio per ottenere un risultato concreto e comprensibile. Che dire. Com'era l'esempio, Simone? Oh, ne ho detti tantissimi. Quella, era, quella di Simone, aspetta, aspetta, com'era quell'esempio? Aspetta. È venuto Giovanni, non Mario? No, Simone. Era Simone? Sì, c'era un Simone. Dai, non mi puoi fare queste cose. Era, sì. Simone è il fratello di Luca. Eccolo. Simone è il fratello di Luca. Te lo presento. Ok. Vai. Ah! Adesso mi divertirò un po' con te, con un bel gioco che ti piacerà. Simone dice che è molto semplice e lui queste cose le sa. Batti in aria le mani, e poi falle vibrare. Se fai come Simone, non puoi certo sbagliare. Adesso che hai capito certamente puoi giocare sempre con gli amici tuoi. Come puoi vedere non è difficile, segui il ritmo e niente più. Butta in aria le mani e poi lasciale andare. Muovile ora con me, un po' di qua e un po' di là. Certamente puoi giocare sempre con gli amici tuoi. Come puoi vedere non è difficile, segui il ritmo e niente più. Batti in aria le mani e poi falle vibrare. Se fai come Simone non puoi certo sbagliare. Simone, eccoci. Ed era per questo che volevo sentire l'esempio. Mi prendevo gioco di te. La nenia mi stupisce sempre. Ero in piena burla. Proprio anche un po'. Come dire, ma come, non lo trovo, chi era Simone, non me lo ricordavo. Scusa, ma io voglio risentire, guarda lì, tiè. E invece mi ha colta sul fatto proprio. E però io ora la punirò lasciandole diciamo poi un compito ingrato. Intanto però iniziamo ad introdurre l'altro tema successivo, facendola molto corta. Abbiamo parlato di frasi marcate e frasi non marcate, no? Di soggetti posposti e quindi di anche proposizioni che hanno il ruolo di tema e non marcate che hanno il ruolo di tema e anche di quei costituenti che possono occupare la posizione tipica del soggetto. Però le dislocazioni, diciamo, all'interno della frase hanno un ordine o a destra o a sinistra. Questa sera iniziamo a parlare delle dislocazioni a sinistra. Come per la scrittura, si parte da sinistra e si va verso destra. A meno che tu non sia arabo. Però, o cinese, ecco. O giapponese, ok, o Leonardo impazzito, o Leonardo da Vinci, non siamo nessuno no, di questi. Né l'uno, né l'altro, né l'altra ancora, guarda. Anche perché, insomma, io buttarmi giù dalle cave di Maiano, sinceramente, no, anche no. Allora, nelle lingue... E poi tutta quella barba. Ti immagini tutte le bricioline, la ribollita in mezzo alla barba, no, via. No, non ci piace. Allora... Nelle lingue romanze sono frequenti costruzioni in cui un costituente diverso dal soggetto viene tematizzato, ovvero enfatizzato, e di conseguenza assunto a tema tramite la collocazione a sinistra del predicato o rema, quindi parte tuttora sconosciuta della frase. Allora, costrutto non marcato, facciamo un esempio. Mio marito legge il giornale alla sera. Fino a qui tutto bene, come direbbero nell'odio. Costrutto marcato. Quando leggete il giornale a casa vostra, il giornale mio marito lo legge alla sera, io lo leggo la mattina. Questa dislocazione a sinistra di il giornale implica anche una connessione sintattica e qua tramite ripresa pronominale anaforica tra l'elemento anteposto, il giornale mio marito, qui sembrerebbero quasi due gli elementi, lo legge alla sera, quindi lo legge alla sera è il resto della frase. E diciamo che questa dislocazione avviene più frequentemente in italiano con il complemento oggetto, ma può venire anche con altri tipi di costituenti. Complementi indiretti. A tuo padre gli ho già parlato io. Di tua sorella non ne so niente. Con la parte nominale di un predicato. Stupido Arturo, scusatemi, un predicato nominale. E o il complemento predicativo del soggetto, quindi stupido Arturo lo è sempre stato, io avvocato non lo diventerò presto, e addirittura con intere preposizioni, una subordinata che non sarei venuto te l'avevo detto già da tempo, per esempio, no? Sono alcune cosine molto molto carine, e queste dislocazioni vengono evitate negli scritti formali, negli scritti scientifici o settoriali, perché soprattutto nel caso dei complementi indiretti che possono essere anticipati, la dislocazione a sinistra comporta un po' una ridondanza pronominale, no? A tuo fratello gli ho parlato ieri, per cui può risultare da un punto di vista scritto e ovviamente non uno scritto di prosa, non un romanzo, non una sceneggiatura, ma da un punto di vista più formale, ecco che questi costrutti, diciamo, vengono evitati. Ecco qua. Questa è una buona introduzione. Oh, brava. Semplice, semplice. Semplice, semplice, sì. E sti cazzi? E sti cazzi dove lo lasciamo? Il nostro caro Nando Martellone. Che bello. Ieri mi sono rivista diversi pezzi di Boris, perché ancora sto bramando per fare un intero fine settimana Boris. A guardare tutto immerso. Boris. Sì, decisamente. È vero. Avrei allora man forte da parte mia. Mi sono presa delle pilloline ieri sera. E sti cazzi. Che bello. No. No, vabbè. Quello non si dice. Quando lo fanno andare alla lo riciclano al reality della casa senza cesso. Tra l'altro è uno dei vincitori 42, lui. Perché 42 giorni. 42 giorni nella casa senza cesso. Che spettacolo, bellissimo. Sì, no, viva Boris e viva René e viva Duccio soprattutto. Sì. Vabbè. E Karin, le cosce. Basta, leviamoci dalla mente Boris. Cosa vuoi sapere da me? Tanti bellissimi vuoi esempi. Vuoi le funzioni fondamentali della periferia sinistra? Sì, la periferia, ragazzi, perché finora abbiamo scherzato, abbiamo parlato di cose un po' civettuole, molto semplici. Ora ci pensa la nenia a bastonare. No. Prendo solo la parte semplice, stai tranquilla. Ecco, facciamo così. Riprendiamo una parte di un libro, appunto, della Donati. Sempre lei. Che è fondamentale nello studio della linguistica. Tanto chiunque ha scritto qualsiasi cosa l'ha preso da lei. Perché solo lei aveva e quindi tempo andiamo e alla fonte del problema. Non dico quello che ho pensato, vai. No. Non lo dico. Allora, tutto questo discorso delle posizioni della periferia sinistra nelle frasi, la Donati le chiama anche posizioni non A, oppure A barra, maiuscolo barra, sarebbero quelle non argomentali, per distinguerle da quelle invece argomentali che sono le posizioni A, A maiuscolo, che sono quelle dove gli argomenti ricevono tutto il ruolo tematico e il caso in ogni situazione. Allora, invece in questi esempi che abbiamo trattato noi, lo spostamento a sinistra ha un'altra funzione, cioè non ha a che fare con il contenuto della frase, come hai detto tu, quindi è quello enunciativo. Sono tutta una serie di informazioni che vengono presentate e sottolineano la struttura informativa, quindi dentro a questo spostamento c'è un'informazione. Ok. Lei dice, in una frase dell'ordine di base, dove cioè non vengono sfruttate queste posizioni, tutte le informazioni sono date indistintamente come nuove per l'ascoltatore. Un po' quello che dicevi tu. Esatto. Un altro esempio, se chiedo per esempio cosa stia succedendo, il mio interlocutore potrebbe rispondere così. Filù guarda la luna. Ok? Eccolo. Il classico Filù degli esempi della Donati. Supponiamo che si stia già parlando quindi di qualcosa e che il mio interlocutore voglia sottolineare la distinzione fra ciò che è noto tanto a lui che a me, quindi il tema dell'enunciato o il topic, ok? Di cui si parlava in precedenza. Esatto, e questo costituisce il nucleo informativo del suo enunciato, quell'informazione nuova, quindi il focus. Per essere più chiari, la luna Filù guarda sempre. In questo caso la luna è il focus, cioè un'informazione nuova, quello che il mio interlocutore non sapeva, quello che non si sa. Invece, questo è la luna Filù guarda sempre. E che effettivamente risponde alla domanda cosa sta succedendo, per esempio. Esatto. Esatto. L'altra frase d'esempio invece potrebbe essere la luna, virgola, Filù la guarda sempre. La luna in questo caso è topic, perché? Perché si parlava già della luna in questo caso, ok? Quindi Filù la guarda sempre. La luna era l'argomento noto, l'argomento di cui già si era discusso, l'argomento che era già stato tirato in ballo. Io semplicemente sottolineo, aggiungo un'informazione, ma la luna di per sé, nello spostamento a sinistra, seguito poi da una virgola, è il nostro topic. Le frasi potrebbero essere anche viste così. Ritorniamo al focus, a quella precedente. La luna Filù guarda sempre, non la TV, ok? Come la luna, a rimarcare la luna, infatti, non la TV. In questi esempi generalmente la marcata a sinistra del focus viene sempre scritto in maiuscolo. Perché? Perché nell'aspetto fonologico è quello che dovrebbe essere marcato. La luna Filù guarda sempre, aggiungo io, non la TV. Torniamo invece all'esempio topic, la luna, Filù la guarda sempre perché è bella, ok? Stiamo aggiungendo delle qualcosa. Informazioni per rendere più chiaro, soprattutto non avendo il testo sott'occhio in radio, tornava cerchiamo semplice. Di rendervi la questione meno sabbiosa, come sì. Sabbia che sfugge tra le dita, no? Esatto, quindi la differenza è tutta qui, il focus è un'informazione nuova che io sposto a sinistra perché voglio enfatizzarla durante un discorso, il topic invece è un'informazione, rimetto a sinistra quell'elemento di cui già si discuteva per poi ampliarlo a seconda del contesto. In sostanza la differenza è questa, ecco. E poi per l'appunto si dice focalizzato, topicalizzato, non topicizzato. Esatto. E invece perché spesso si sbaglia. E tutto questo spostamento a sinistra dal punto di vista dell'enfatizzazione del discorso è un po' diverso da quello che avviene quando invece alla sinistra mettiamo per l'appunto gli elementi VH, che sono... Attenzione! Lì ci sarebbe da fare un'altra distinzione, soprattutto nelle lingue... nell'italiano, esatto, anche nell'inglese, anche. Comunque rimane sì, una traccia nell'albero di questo spostamento, per cui... Quando poi andiamo a trasformarlo in un albero... Ma proprio per la questione, forse, che si diceva prima, tipica delle lingue romanze, e quindi che hanno la possibilità di inserire all'interno delle frasi un soggetto posposto, mentre le lingue anglosassoni, e la lingua anglosassone comunque di origine anglosassone, teoricamente non può permettersi questa possibilità. Sì, probabilmente sì. È quello. Non ricordo il tedesco, ma mi sembra che anche il tedesco non so, non, non ammetta il soggetto posposto o addirittura sottinteso. Ma se lo sapete, ce lo dovete scrivere a postabomba@siberia.net, se c'è qualche madrelingua all'ascolto. Ed è molto simile anche, sempre però parlando di, soprattutto parlando di dialetti, avviene anche in alcuni esempi, sì, anche, vero? Quando il complementatore interrogativo si sposta all'inizio della frase, e ci sono alcuni casi nel fiorentino, nel sardo, tu dicevi nel piemontese, sì, forse anche nell'italiano. Adesso se alcuni, abbiamo un esempio concreto, te lo so dire. Per esempio, nel fiorentino, io qui ho l'esempio che la viene la Maria, quindi questo complementatore interrogativo all'inizio c'è. Della frase, come per esempio in sardo. Si emoziona la nena. No, perché qui è trascritto in un sardo logudorese, e quindi devo trovare. Lo traduco nel mio sardo. Kajabengu grasi. Sì. Kajabengu krasi, sì, significa vengo già domani. Metto questo krasi, ka, che è il complementatore, la traduzione sarebbe il che, anche se in realtà non è traducibile. Ma devo venire domani, no? No, vengo domani. Vengo già domani. Tipo ti aspetto venerdì, ti aspetto domenica, vengo già domani. Kajabengu krasi. Perché c'è anche il betacismo, è vero. Certo. Non ci facciamo mancare niente. E chiaramente ci sono esempi in tutte le lingue, estone e persiano, ma non oso minimamente provare a pronunciarli. E quindi direi che finisco così il mio scorso con le lingue straniere e ritornerei all'italiano. Va ora in onda sì. L'almanacco del giorno dopo. E intanto ascolterei un po' un di musica. Dai, sì. Che tra dici? L'altro, che ne dite se prossimamente mettiamo la sigla dell'almanacco? Sarebbe male. Molto bella. Ma forse l'avevamo già usata. O perlomeno ci abbiamo provato diverse volte. E sì. Poi non è andata a buon fine, non lo so. Intanto... E quindi dopo tutte queste cose pallosissime, pesanti, vi farò sentire la differenza di come si insegna a distinguere la destra e la sinistra. Prima facciamo sentire una canzoncina italiana, sì, per bambini. Cerchiamo di sollevarvi il morale. Dopodiché vi farò sentire. No, ragazzi, davvero. Allora, noi siamo cresciuti così? Domanda. Ebbene sì. Noi, è così che siamo cresciuti? Noi dove stiamo andando? Chi cosa siamo? Stiamo facendo? Eccolo, l'ha rifatto. Ah, vedi, questo abbiamo è un problema serio. Un problema con allora vi faremo il sentire nostro... prima quella. Vedi? No, è ma tutto così. Che... Oggi è tutto così. Se l'è presa. Allora, il nostro lettore della radio se l'è presa, si è offeso. Oppure è talmente interessato anch'io. All'argomento che cerca di depistare ogni nostro tentativo di far ascoltare musica. Ma io non demordo. Brava, Nenia. E farò una cosa. Non posso dire le parolacce, vero? No, puoi. Ah sì? Sì. No, vabbè, ma forse ne faccio a meno, guarda. Perché vediamo se perché il tentativo... in tutto questo, marasma io vi farò questa mossa. Mela mela music. Eccola! Mela mela music. Mela mela music. Ciao bambini. Forse era meglio di no. Conoscere la destra e la sinistra. Siete pronti? Buon divertimento. Destra, sinistra, che differenza fa? Destra, sinistra, ora lo scoprirai. Destra, sinistra, che differenza fa? Destra, sinistra, ora lo scoprirai. Cominciamo con la destra, che si trova in questo lato. Se ora muovo il piede destro, tengo il ritmo e vado in qua. Così a destra c'è una gamba, ma che un braccio ed una mano, un orecchio, un occhio, un naso. Hai capito come si insegna la destra e la sinistra ai bambini in Italia? Che differenza fa? Destra, sinistra, ora lo scoprirai. Destra, sinistra, Adesso invece vi faremo sentire come si insegna oltre Alpe. Eccoci. Bene. Dai, è bellissima. Ci dà quella sensazione di bambini in fila ordinati. Ballo della Digos. Questo è il ballo della Digos. In the air, now wave it. I said wave it. Put your right hand in the air. Now wave it. I said wave it. Put your left hand in the air. Fist pump it. Fist pump it. Put your right hand in the air. Fist pump it. Fist pump it. Ci tengo a ribadire il concetto, no? La canzoncina italiana. Se non fosse ancora chiaro, ora tu lo imparerai. Tra l'altro, Toni, coercitivi di nulla proprio. Se non fosse ancora chiaro, adesso lo imparerai. No, vergogna. Basta, noi l'abbiamo scoperto abbastanza. Sappiamo per oggi già qualcosa e ci accontentiamo di sì, questo. Sì. Ma facendo un po' un siamo pronte per dare gli appuntamenti del fine settimana oppure vogliamo? Non li ho ancora trovati. Mi coglie un po' impreparata. Allora, perché li cercavo. E allora facciamo disperatamente. Cosa facciamo? Possiamo ma sì, dai, finiamo con Filù? Si finisce con Filù? Finiamo con Filù, allora. Si diceva, tutto questo riferimento a questa differenza rispetto alla struttura del discorso, no? Si dice che la luna è focalizzato in quella frase che abbiamo visto prima, sempre la luna Filù guarda sempre, è topicalizzato nella frase la luna, virgola, Filù la guarda sempre. Ok. Si diceva anche il movimento VH, quindi quello che abbiamo detto del chi, dove, come, quando, che viene spostato all'inizio, può essere ricondotto a questo obiettivo di sottolineare l'articolazione dell'informazione nel discorso. Per esempio, disloco l'elemento VH nella periferia a sinistra, mettendo in risalto tutto il costituente su cui poi verte la domanda, quindi quello che poi noi vogliamo sapere da questa domanda. Chi è venuto a cena, il chi sostituisce l'elemento di cui noi vogliamo conoscere l'identità. La nozione stessa poi di modalità ha a che fare con l'intonazione comunicativa, quello che si diceva prima, quindi. E per esempio, se prendiamo anche la frase dichiarativa guardi la luna e la frase imperativa guarda la luna, vediamo che hanno lo stesso contenuto proposizionale, quindi che hanno comunque l'entità del descrivere e l'entità dell'ottenere qualcosa. Descrivere in guardi la luna e nell'ottenere guarda la luna, ottengo che qualcuno faccia qualcosa, quindi nel senso imperativo. Quello che cambia però è tutto lo status che dell'enunciazione che si dà alla proposizione, quindi nel caso della dichiarativa il parlante intende appunto descrivere quello che si diceva, descrivere uno stato di cose, quindi guardo la luna, sto descrivendo quello che sto facendo. Nel caso invece dell'imperativa si vuole ottenere appunto quel qualcosa e quindi si ritorna a quello che si diceva prima, che generalizzando poi tutta la periferia a sinistra mette in relazione la sintassi di tutta la frase con la dimensione pragmatica dell'uso concreto della lingua. È qui. E vai. È qui che ti devo dire. Manca solo tutto lo spostamento a destra, che però a questo punto, visto che abbiamo imparato la destra e la sinistra, me lo terrei per la prossima volta. Quindi, perché abbiamo delle cose da leggere. Sì, importanti, e che non riguardano ovviamente né la linguistica, né la lingua italiana, né la filologia, né la glottologia, nemmeno la comunicazione. O meglio, sono comunicazioni abbastanza pregnanti, secondo noi, che riguardano un po' quella che è la situazione in città. Anche qui è sempre un po' relativo agli spostamenti a destra e a sinistra, ma di un'altra entità. Di un'altra entità, perché? In generale, dove ti sposti, ti sposti e ti sposti male. È un po' quello che sta succedendo ultimamente nelle città, nella nostra, ma in generale in tutta Italia. C'è un po' questa ondata al dettare ordine, legge, disciplina e a... Sì, non so. Non... Tutto questo non fa rima con, ovviamente, tutto quello che noi vorremmo. Ecco. Per cui... Ci stiamo imbruttendo, ci stiamo veramente imbruttendo da tutti i punti di vista. La situazione è pessima, è squallida, è invivibile, succedono tante cose brutte. Pericolosa, perché è questa secondo me la vera mancanza di sicurezza, no? Di sentirsi tranquilli e sicuri. Sì, a Roma si sono accorti finalmente che ci sono i cosiddetti barboni. Ora, dopo il... Non erano personaggi mitologici, quindi. No, ora, dopo il pensiamo agli italiani, a qualcuno è venuto in mente, ah già, ma tutti i barboni ci sono per strada, sono italiani, sono tantissimi. E quindi li costringiamo ad accettare il nostro aiuto. Qualcuno ha ascoltato Pagina 3 questa mattina? Sì, tutte le mattine, ecco, sempre. Vedi, no, ma questo viene la nenia, vabbè, ma che ve lo dico a fare? Questa però non l'ho trovata. Su Pagina 3 hanno fatto un approfondimento da qualche altra parte. Ah sì, ecco. Sì, hanno fatto anche loro, perché ovviamente si parla anche delle radio quelle concorrenti, certo. Chiamiamole così, dai. Le radioserie. E quindi pare che abbiano proposto addirittura il TSO per far accettare gli aiuti, certo. Ho sentito davvero... È molto democratico, certo. I ben pensanti. Però poi dicevano sì, perché un TSO comunque può avere come durata massima 10-11 giorni, per cui ma queste persone stanno al caldo. Se ti riscalda, capito? Vabbè. Detto questo... Quindi c'è stato anche un approfondimento, non me lo andrò a ascoltare. Certo, su Radio 3, ragazzi. Questo non me lo sono perso. Grazie, perché mi interessa molto questo argomento. Ecco. DTSO? Sì, anche. Sì. Allora, facciamo così. Che si fa? Si fa ascoltare un brano oppure andiamo diretti con questo comunicato? No, io prima leggerei il comunicato. Perfetto. Poi dopo ho già un pezzo pronto. Allora, come forse molti o pochi non sappiamo di voi... sapranno o forse no, Corsica 81 è minacciata di sgombero, e vi leggiamo il comunicato perché questa è una delle tante stelline, no, che appartengono a questa costellazione di posti, come ci piace chiamarli, no, che sono effettivamente in pericolo di vita. Si prevedono forti perturbazioni a rifredi e alla fine ci siamo. Dopo 6 anni la notizia è arrivata. Corsica 81 è stata venduta dal tribunale che l'aveva requisita in seguito alla bancarotta fraudolenta del gruppo Margheri. Ad acquistarla M&M, come gli M&M's, Casa SRL, un immobiliare che agisce per conto del gruppo Intesa San Paolo. Da una parte la nostra casa, quindi, dall'altra il tribunale, la questura, una banca e un immobiliare. Davvero un bel sodalizio, non c'è che dire. Il disegno sembra però ancora più ampio e cupo. Ad oggi Corsica 81 è infatti nuovamente in vendita all'interno di un pacchetto unico che comprende anche altre proprietà situate parimenti in Viale Corsica. La stessa via in cui sempre in questo anno inizieranno i lavori per distruggere l'area cane autogestita, sostituita da un nuovo parcheggio, scambiatore della tranvia. Si cerca, insomma, un imprenditore che metta le mani su tutta la via e porti avanti il progetto di gentrificazione della zona, iniziato con il rifacimento di Piazza Dalmazia, continuato con la realizzazione della tranvia stessa e che proseguirà interessando anche l'ex panificio militare,

che arriva e che spiega effettivamente Bravi. Tante cose, tante diciamo filosofie, tanti pensieri e tanti schieramenti che effettivamente oggigiorno secondo me è necessario un pochettino abbracciare. E vabbè, però ci sono anche cose belle. Sì, ho visto una mostra molto bella sabato al Next Emerson, nel NEMA, il nuovo spazio espositivo del Next Emerson. E il NEMA è il nuovo museo autogestito del Next Emerson, che poi probabilmente vedrà anche altre succursali, chissà. E questo museo consiste in spazi all'aperto che ancora devono diventare percorsi visitabili. E per il momento, perché è tanto freddo e non si può girellare troppo, è stato tutto concentrato in uno spazio espositivo molto serio, molto raffinato, figo. Davvero, mi hanno parlato di un Total Black. Sì, molto, molto, molto serio. E, questo spazio espositivo ha visto una serie di lavori che sono stati fatti nel 2009 per la CIA. La 10 Years Challenge arriva anche su Radio Wombat. Giusto, è vero. Perfetto, ma noi dobbiamo, no, io e la Nania dobbiamo assolutamente lanciare un nuovo programma di attualità. Mamma mia, veramente. E quindi ha visto la mostra del Babau. Il Babau era questo mostriciattolo che faceva paura. L'argomento chiaramente era tutto rivolto alla paura mediatica. Molto interessante rivederla dopo 10 anni, veramente. E molto interessante il progetto. Ora non abbiamo abbastanza tempo, ne parleremo magari con calma la prossima volta. Però se intanto volete potete andare a nema.noblogs.org. Hanno anche già un sito. Sì, dove già si possono vedere gli eventi in corso, gli eventi passati, permanenti, temporanei, il progetto, dove siamo, un po' la filosofia di tutto il NEMA, di quello che è stato e che vorrà essere. E anche i contatti per poi poter partecipare, quindi artisti più o meno in erba, artisti famosi, artisti non famosi, persone che amano l'arte e non vogliono metterla da parte, eccetera, eccetera, possono contattare io credo che sia la stessa mail del Next Emerson, sì. Per poter appunto chiedere di esporre o solo collaborare a questa iniziativa. Verranno fatti altri eventi anche di 2 giorni, quando sarà un pochino più caldo. Insomma, ci sono tante cose che bollono in pentola, quindi se volete partecipare più o meno attivamente, non siate passivi ma partecipate attivamente, andate nel blog nema.noblogs.org, poi ne riparleremo con calma, ma magari quando riusciamo a leggere ad approfondire un po'. Però appunto non siate passivi per 2 motivi: uno, perché non dovete vergognarvi di quelle che sono le vostre produzioni artistiche, anzi dovete renderle fruibili, perché siamo tutti delle fucine, delle teste in movimento, e due, perché effettivamente il Next Emerson, come tutti gli altri posti che sono ora in una situazione effettivamente precaria, hanno bisogno del contributo umano delle persone. Per cui accorrete, siate generosi e il Next Emerson sarà generoso nei vostri confronti. Ecco, questa mostra è dal 12 al 26 gennaio. Mi dicono anche che a breve uscirà sul sito. La mostra adesso è visitabile durante l'apertura del posto, quindi quando ci sono serate, eventi vari, quando c'è la palestra o la biblioteca. Ma verrà anche pubblicato un pomeriggio intero per chi non vuole fare tardi la sera o per chi semplicemente fa una passeggiata nel quartiere, in cui verrà aperto al pubblico durante una giornata di non iniziativa, ecco. Quindi aggiornatevi sul sito, poi magari ne riparleremo anche noi giovedì prossimo. Detto ciò, sono le 20:54, quindi siamo già sul finale. Sul volgere della sera. Hai qualcosa da aggiungere? Io direi postawombat@insiberia.net. I soliti social brutti, come facebook.com/radio-wombat-firenze e il più bellino Twitter, ma pur sempre social, twitter.com/radio-wombat-fi. E poi vi delizieremo dei prossimi ritrovamenti del Wombat nel mondo. Oh, ragazzi, non abbiamo parlato della rubrica stasera. Non ne abbiamo parlato perché alla fine abbiamo parlato di tante altre cose. C'è stato questo comunicato di Corsica che era chiaramente più urgente, quindi abbiamo deciso di dedicare il tempo al comunicato. Guarda caso, l'abbiamo letto noi della Brusca perché era bellissimo, è scritto benissimo. Faccio i complimenti a questi ragazzi. E quindi ritaglieremo un altro po' di tempo in un'altra occasione per parlare del nostro wombat nel mondo. Wombatino, ma ora che dire? Dobbiamo chiedere una sola cosa ai nostri spettatori. I nostri ascoltatori. Aspettatori, ascoltatori, cacciatori, raccoglitori e agricoltori. Soprattutto siamo pieni di agricoltori in questa radio. Sì, sì, sì, un saluto a Radio Contado, un saluto a tutte le altre radio, dopo ricordiamolo. Ho una richiesta per Radio Contado. A quando una rubrica sulle orchidee? Lo so che non sono veramente in target. Le orchidee muoiono. No, non è vero. La mia sta facendo la seconda fioritura. Perché non sono ancora stata a casa tua. La nasconderò, la benderò, sì, non l'avrai devi mai. Devi bendare me, sono io che guardando le piante le uccido. E insomma, siamo al momento dei saluti e dei baci. Tante orchidee per tutti. Ma. E soprattutto... Preferisco i broccoli. Beh, hanno un'utilità nettamente migliore. Penso che le orchidee siano anche tossiche, per cui insomma non edibili perlomeno. Ma ecco. Sì, ah, ecco perché sono così. Forse ne ho mangiato. Mangio orchidee. I mangiatori di loto. Ecco. Allora ragazzi, nulla, ci si risente il 24 gennaio, sempre su queste... Sì? Sempre su queste frequenze, esatto. Ricordiamolo. Sempre su queste, sì, la confusione mentale arriva all'ultimo. 1359 per chi ci ascolta in AM. E dal radio delle macchine e streaming Radio Wombat, streaming chi radio ci ascolta Wombat, certo, twitter.com/radiowombatfi, basta, abbiamo detto l'essenziale. Tutto. Un pezzo per chiudere, vi salutiamo adesso, un pezzo scontato, ma che ci stava, d'altronde come facevi dopo tutto questo destra sinistra, andava messo e per questo noi vi chiediamo in ginocchio. Assolutamente. Perdono. Perdono. Buonanotte. Bene, arrivederci. Arrivederci. Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. No, scusate, la nenia mi ha fregata un'altra volta. La canzone in programma era l'altro. Io ti indicavo sotto io quell'altro, non è quello. Vabbè, vi chiediamo perdono ugualmente. Comunque chiediamo perdono. Di contrabbando e di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, già noi non son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I blugis che sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra, il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, il reggicazzo è più che mai di destra, la pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra è trasparente, è evidente che sia un po' di destra, mentre i fiumi, tutti i laghi, anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, malgrado tutto, credo ancora che ci sia. È la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa, dove non si sa, dove non si sa.